Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprende il nostro viaggio con i diversi collaboratori, le diverse anime della Caritas di Padova. Dopo aver parlato per due puntate delle iniziative estive, ora siamo in collegamento con uno degli operatori della Caritas di Padova, in particolare al centro di ascolto, quello di Via Bonporti, è Marcello Ferracco, che saluto, benvenuto e grazie per la disponibilità. Buongiorno. Marcello è uno studente tirocinante, sta facendo il tirocinio appunto nell'accordo che c'è tra la Caritas di Padova e il Comune, sta completando la laurea specialistica in servizi sociali a Venezia e Marcello hai scelto proprio di fare questo tirocinio in Caritas per poi andare appunto a lavorare nel settore in cui hai studiato. Esatto, sì, ho fatto quando mi hanno... Nella scelta del tirocinio, diciamo che mi sono guardato un po' in giro, io abitavo a Venezia, però ho chiesto diverse Caritas, diversi comuni e alla fine ho trovato questa soluzione qua a Venezia in collaborazione tra la Caritas e il comune in cui mi sto trovando molto bene perché vedo diversi servizi. E appunto sei nella sede di Padova della Caritas, in particolare al centro di ascolto, ma per un servizio molto specifico che è lo sportello uomo, perché c'è, e lo spieghiamo così Marcello, c'è uno sportello uomo e uno sportello donna, vuoi dirci qualcosa? Sì, qua in Caritas c'è un centro di ascolto per le famiglie e poi questi sportelli che sono principalmente per persone senza fissa dimora o marginalità grave. Quindi adesso sono in questo momento allo sportello uomo e seguiamo persone senza dimora oppure ti aiutiamo con appunto facendo rinnovi dei buoni pasto oppure aiutandoli magari con dei biglietti di viaggio per andare se hanno trovato un lavoro altrove per dargli una possibilità appunto di cominciare a lavorare o comunque semplicemente ascoltandoli. Che appunto che è il ruolo principale, poi come dice il nome del centro di ascolto. Esatto. Vuoi spiegarci meglio? Ne avevamo già parlato, però forse è il caso di ribadire il concetto. Come sono gestiti appunto questi buoni pasto? Hai parlato di rinnovo, vuoi spiegarci il meccanismo? Esatto, praticamente per accedere alle cucine popolari che sono gestite dal comune, diciamo c'è una... non si può andare direttamente pagando però un piccolo prezzo che è 2,50 euro per avere un pranzo oppure la Caritas appunto ha un fondo che serve per far andare le persone gratuitamente le persone che hanno bisogno a accedere alla mensa popolare però ovviamente prima di farle accedere di dare questo aiuto si ritiene importante che le persone passino da qua e parlino con i volontari, con gli operatori in modo che questo anche un po' come scusa di dare questo buono pasto diventi un aggancio qua con il centro di ascolto dove possono avere un supporto anche come dire in altri ambiti della loro vita, un riferimento. Sì, diciamo che l'obiettivo, come ci hanno spiegato anche altri operatori, anche vicariali, è che alla fine una persona smetta di tornare alla Caritas perché magari ha trovato soluzioni diverse in maggiore autonomia. Esatto, lo sgancio, diciamo, è un obiettivo fondamentale, nel senso, e quindi qua la Caritas dà il suo contributo, i volontari danno il loro contributo per seguire queste persone e cercare di portarle verso un'autonomia, una non dipendenza dai servizi. Da due mesi appunto tu stai svolgendo questo tirocinio, ne avrai per altrettanto, puoi farci a metà appunto, a metà del cammino, come diceva Dante, un primo bilancio tuo personale? È stata fino adesso un'esperienza anche umana molto forte. L'ambiente qua in Caritas è molto, come dire, molto umano, nel senso che si lavora, cioè è un ambiente di lavoro un po' atipico, diciamo, anche rispetto a quello dei servizi sociali, perché si lavora tanto con altri volontari e quindi c'è un ambiente molto positivo. Una difficoltà che ho incontrato soprattutto inizialmente è nel contatto con le persone, con gli utenti, diciamo. perché comunque mi sono trovato anche da solo a fare colloqui di fronte a situazioni anche molto complicate. Però era un po' anche quello che volevo fare, andare incontro alle persone in questo tirocinio. Il fatto di essere in Caritas piuttosto che in un servizio del comune credo mi abbia dato questa possibilità di incontrare delle persone, non solo di ragionare sugli servizi più in modo più burocratico, diciamo. Ecco, appunto, volevo chiederti anche questo. Chiaramente il tirocinio serve per fare esperienza, ma rispetto a quello che hai studiato sui libri, quanto diversa è la realtà? È molto diversa, perché la realtà, cioè, i libri di servizio sociale ti parlano comunque di progettualità con la persona, di approcci al problema a livello psicologico, sociale, di rete, eccetera. Però quando hai davanti la persona con le sue fragilità e con il suo problema, come dire, precipuo, il problema che è in quel momento, è difficile fare dei ragionamenti più complessi. Si tratta di, come dire, delle capacità di andare incontro alla persona che impari sul campo, sui libri, è un po' improbabile. Certo, i libri servono, ma poi conta sono moltissimo. Fondamentali, sì. Sono fondamentali, ma poi è importantissimo anche quello che tu stai facendo. Hai detto ti è capitato appunto di essere da solo, di fare dei colloqui, ma insomma l'ambiente lo sentiamo anche dai rumori di fondo, sì. È anche molto vivace, no? Esatto, sì. Molto frequentato. Allora, Marcello, noi ti ringraziamo, ti auguriamo in bocca al lupo per questi altri 2 mesi di tirocinio, ringraziandoti per il servizio che con gli altri stai facendo, e ti auguriamo buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, è stato un piacere. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.